fragile e pensieri labili. Un labirinto di speranze in cui gli appigli sono fragili. Navighi tra cappi in cui ti aggrappi con il rischio di rimanerci in mezzo, no, di che non sai più scioglierli. Non sei più un bimbo, non sei adulto, sei in un limbo che ti sconvolge e avvolge. È solo un sogno per scappare da qui. Se fossi forte non vivresti in questi versi, ma se non fossi forte forse vestiresti altre vesti. Incerti e inerti sono giorni che ci inseguono. Scappiamo dal passato anche se il presente è pettegolo e ci racconta di tagli e cicatrici. Chi beveva quel sangue adesso è digiuno da un pezzo, sì. Fabbrichi scuri astratti con costanza, con la rabbia in gola dall'inverno scorso, il freddo ancora in stanza. Infanzia di cui conservi denti in scatole, disegni dentro quadri incorniciati in corridoi di favole. Esci su, è giunto il tempo ormai, la tua crisalide si sgretola, corre col vento. Forte non lo sei, forse lo sarai, stai tessendo sulla pelle le tue ali di cemento. Esci su, è giunto il tempo ormai, la tua crisalide si sgretola, corre col vento. Forte non lo sei, forse lo sarai, stai tessendo sulla pelle le tue ali di cemento. Ali di farfalla attendono nel tuo domani, puntando al cielo sempre in cima, in alto i nostri piani. Mutando forma, aspetto, redenzione in atto. Quando il canto di sirena chiama, il cuore fa contatto. Intanto hai infranto regole portanti, mai prostrarti dinanzi a tagli inferti, sono pronti a incatenarti. Sguardi che fendono le carni come dardi in fiamme, a darti per defunto il mondo non attende le tue salme. Sei lì nel mezzo e non sai se quella che hai percorso fino ad oggi era la strada per te. Perciò asfaltando i tuoi pensieri crei percorsi impervi, conducendoli in oblio l'essenza della sua esistenza. E non ti perdi, la tua crisalide ora è forte, si ciba per mostrarsi al mondo in tutte le sue forme. Un'arte viva, amore infonde, se tu l'ami lei risponde. Vuole in cambio la tua vita, ma ti culla fra le onde. Lassù è giunto il tempo ormai, la tua crisalide si sgretola, corre col vento. Forte non lo sei, forse lo sarai, hai tessuto sulla pelle le tue ali di cemento. Lassù è giunto il tempo ormai, la tua crisalide si sgretola, corre col vento. Forte non lo sei, forse lo sarai, hai tessuto sulla pelle le tue ali di cemento. Le tue ali di cemento.